Ora. Adesso mi radio dici, ascoltate la rimaccia lunga, cambio passo, come vengo a comprare scambio. Ora. C'è qualcuno in ascolto? Cambio. Ora. C'è qualcuno in ascolto? Cambio, passo, vendo, compro e scambio. Binario 10, ascoltate qua, cambio. One. Ora, CQDX. Hola. Ora, 1, 2, 3, prova. Nessuno sul 10, cambio? E io nessuno sono. Un pochettino così, là, ma buonasera. Ciao ragazzi. Ciao Gianni, mi hai ascoltato. Salve, nate tuo figlio. Ale. Il 30 al 30, cambio. E allora ci sei, là. Però secondo, salve, che il regolo stazionario. C'è il regolo, il controllo, che altro. Ecco, a posto. 1. Accordando. Stazionario stavo regolando, stavo controllando a vedere se siamo stazionari con la pioggia, ma non ce n'è, grazie a Dio. Non mi aumentano mai. Caparroggero. Controllando le stazionarie. Non regolando, se stai regolando vuol dire che stai accordando, cambio passo. Se tu passi da un canale all'altro, da un apparecchio all'altro, è normale che le controlli ogni volta. Ia. Ora io ho acceso 5 minuti per far scaldare, che poi dopo devo uscire, stasera devo andare, sono trasferta, sono andato a pescare. L'altro giorno sei andata? Sì, sono uscito pure. Ora uscito. Com'è andata? Male, poca roba, dai. Vabbè. Intanto di pagare la miscela per il motore, eccetera, o cosa va, benzina. 12 kg di pesce ho preso, ma in mezzo c'era anche gronghi, murene, capisci? Vabbè, un grongo e una murena, grosso, biglia. Capo, sei andato bene. Dove sei andato? Dalla parte di Castelsanza? No, negativo, mali fuori. Guarda te che sei, che ti fidi. Io una volta, sai cosa mi è successo? Siamo usciti con un amico mio, c'ha una Sessa, una pilottina Sessa con due motori da 80 cavalli, bellina, dai, si può andare sotto, c'è il posto per mangiare, tutto quanto, pendalino. Siamo andati, l'ha comprata a seconda mano. Lui non è che l'ha controllata prima di uscire, poca rete bisasso. Siamo usciti a Mare di Furi, siamo andati verso Mosa, d'Alghero, proprio fuori siamo usciti. E ci siamo messi a pescare, stavamo pescando, pizzoni. E poi praticamente è andato a mettere le moto, non metteva più moto. Mi sono cagato sotto. E non ci aveva? La batteria, non aveva controllato la batteria, dove c'era la batteria? La prima cosa che ho pensato è quella. E ce l'ho lì. Chiavi non ne hai? No, non ne ho portato. Lo sai cosa ho fatto? I mossetti della batteria li ho mossi a mano così ed è partito subito. Poco contatto, usci dove era, male, bisogna sempre avere a parte gli attrezzi e poi prima di partire sempre controllare tutto, come ti posso io. Pensa che il motore io l'accendo in vasca prima di portarlo a mare, fatti un conto. Mica noi eravamo a 100 metri di profondità pescando, anche di più, 150. Avevamo piombi da mezzo chilo, immaginati tu, c'era un po' di corrente sotto, provata a pescare con la canna normale, con un piombo da 150, si portava la lente. Caparroggio, non è bella corrente, quando c'è da scendere 100-150 metri di fondale, è logico, cappa, adesso mi pare che è penduccia, non veni giù, tutti assenti, ho fatto un paio di chiamate da poco fa. È un paio di giorni così che non entra nessuno, deve essere una negata. Ti stavo dicendo che Una volta abbiamo fatto strage, vabbè, però ci aveva fatto mettere sul coso, ci aveva fatto mettere proprio il punto esatto, capito, dove si pescava. Non è che tu trovi un giorno che c'è mare calmo, vai lì tranquillo, ripeto. E ne abbiamo preso un bel po', cazzo, tutte da chilo e mezzo, da 2 chili, tutte belle. Ecco, vabbè, se c'hai il punto segnato e vai direttamente sopra col GPS, e gli dà ragione, capito, c'è problema, già li peschi. E gli ha messo anche il segnalino, gli ha messo la bandierina, col pallone la bandierina per segnalare, ha detto guarda, trovi la bandierina lì e sei tranquillo, vai lì, ti fermi lì e ripeti. Facevamo battere l'una, anche due in una volta l'abbiamo preso. Positivo, doppio amo, 2, 3 ami, a volte se c'è fortuna ne agganci anche tutte e 3 ami, 3 pisotti. Cioè no, di quelle sarraine non ho pescato, con la cannetta mia, no? Lui c'aveva la canna elettrica, aveva 2 canne elettriche e uno l'ho portato io, ma una cannetta a 3 metri. E mi stavo divertendo, ci siamo messi sotto costa, quasi dove c'è l'allevamento delle orate di Alghero, non so se sei mai stato lì, è quasi vicino, lì ci siamo messi, in caso prendevo queste sarraine, ma pezzi belli, tutte una più vicina, salivano tutte a bocca aperta. Gatto. Dai, già, le sento l'induccia, ora ci vediamo dopo. E già, va bene, dai. Andare, senta qualcuno, se no spengo e faccio altre cose, se no non c'è problema. Io qua lascio il moto lo stesso, magari ci andiamo dopo, ok? Tanto dentro l'accetta veloce. Perché non te lo metti in gommone? No, mi interessa, in gommone devo fare altro, non ne ho tempo a stare con il baracchino. Vabbè, poi in estate se devo andare a passeggiare, cosa mi rubo su Burbunino, non c'è problema. Ma è una sicurezza, capito? È una sicurezza anche quella, se dove Dio non voglia, ma che succede? Qualche cosa che non ti parte il gomone, roba del genere, c'hai lo apparecchio. No, ma lì c'ho i razzi e c'ho anche il cellulare, capito? Non c'è problema. Perché al limite se metti una radio devi mettere un VHF, non è che metti la 27. E chi l'ha detto questo? Si può mettere anche la 27. A chi prima come ti la via nei pescherici, non c'erano tutti la 27? Infatti, non c'è più nessuno. Capito? Prima stavano sul canale 1 pescherici, perché non me lo ricordo, perché non ci parlavo con le imbarcazioni da casa, sul canale 1. E allora va bene anche la 27, non è che per forza devi avere il VHF, poi devi avere anche il patentino per avere questo. Io lo so, ma infatti non mi interessa adesso, se dovessi metterlo in estate la 27 per fare qualche collegamento, capito? Giusto così, non come emergenza, perché come emergenza tanto chi chiami, non per più nessuno, cosa? Anna, ripondimi sulla 27, cazzo, che ho già affondato, già, lasciamo appigli. Prima sul canale 9 c'era sempre centro d'ascolto per le emergenze radio. Adesso non lo so se ci sia ancora, ma prima c'era anche la prefettura, eccetera. La parrocchia. Va bene che va bene. Cambio, passo, passo. E vai a fiatti che devi crescere ancora. Eia. Andare là. Ciao già, a dopo magari. Comunque io mi sono iscritto e la prima lezione è saltata perché il professore non stava bene e sta frequentando il corso. Quale? Quello per la diamatoria? Positivo. Fai bene, se ti piace. Certo, è sempre piaciuto, poi si vedrà. Infatti. Se studi già passa adesso, lo fanno tutto via internet, dice che è più facile. Io il corso lo sto facendo di persona, non è via internet, poi hai la possibilità di dare l'esame online, però il corso è qua a latte dolce, capito? Ho capito. Ma c'è una sede, un'associazione che lo fa? Certo, un'associazione, di giù dove ci sono le ambulanze, a latte dolce, capito? Adesso venerdì iniziamo. A soccorso Sasa? No, negativo, l'altra che c'è giù. Sasa di soccorso? Dove c'è l'ufficio col cavetto? Sasa di soccorso. Via, dai, a dopo Gianni, ciao. Ciao, ci sentiamo. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno in ascolto, cambio. Chiesto. Avanti. Chi è la? Lo giallo. Chi è? Lo giallo. Con pugno tu sì. Non si ricomprende nulla. C'è il checco. Antone, tu sì. Antonello. Gianni. Tu sì. No, poco fa no, adesso sì. Adesso va bene. Dove sei? In campagna. Fatto il positivo, dalla macchina so. Ah, stai dicendo bene adesso. Prima con l'ecco non capivo, mi sembravi un pugno. Ecco, era mio, grosso figlio. Non avevo potuto dire, ecco, non mi piace. Ah, va bene così, fra. Quell'ecco lì non è bello, dico la verità. Quello lì è il Midland. Questo qua è quello piccolino, sì, con il microfono suo. Ah, c'ha l'ecco anche? Oh, non lo so. No, questo è il microfono normale. Ah, ma prima stavi usando un altro apparecchio. Stavo provando quel microfono con l'ecco, non è 300, ma non va bene qua. C'è un disaccordo. Non si capisce, no? È un po' aburottoso. O lo devi abbassare, forse perché è troppo forte, li devi abbassare il trimmer appena appena. Infatti quello è regolato da dentro. Perché esce troppo forte e le parole non si scandiscono bene. E come mai in campagna? Cosa stai facendo? Lavori? Stavo finendo di tagliare l'erba, quella roba lì. Una sistemata già, si arriva l'estate qua. È un casino. Dopo c'è la foresta. Solo che mi sta piovuto, tutta lì l'erba piove e torna tutta a casa. Già lo so, è così. Adesso la sto pilotando con l'800. Sì, va bene, va bene. È buono. E segnale non te lo posso dare, questo apparecchio lo sai che non va bene. Non va bene lo Smith. Vabbè, proprio, con questa porta. Hanno messo la porta. Che ha messo la porta? Ma l'ho passato. Aspetta, ho provato un'altra antenna, vedi. Cosa fra? Ho provato un'altra antenna. Nella macchina sempre. Vedi. Ma adesso in campagna piazzata, cosa c'hai? Ah, sempre con la boomer. E con questa come è già? Uguale. Più bassa la radio. Più bassa la radio, no. Vabbè, questa è l'antenna della macchina. L'altra la boomerang. L'altra la boomerang, sì. Questa qua rimane leggermente più bassa la radio, invece la te la rende più forte. Ma il segnale è sempre uguale, però. Sì, più o meno sì. Vabbè, cado un po' di chissà chi chiedi tu. O una o l'altra per far schioccare. Se metti quella con i radiali va bene. Abbastra pure la bumbera. Adesso ho collegato la bumbera. Cava cava. Va bene. Interessante che ti sente. Ma se non c'hai attaccato l'ideale, non lasciare di tenere attaccato con la macchina spenta, mi sento la buttare giù. Ma il baracchino non ti va di nulla, non spreca nulla di corrente. Già va bene, ti sento hostess. Stamattina è arrivata quella roba, adesso ti stai portando indietro, tutta la propagazione ti sta coprendo, attacca che sennò non ti intendi. Adesso mi senti, sì. Adesso di lusso. Solo che non prendo il motore a macchina, è ovvio, bisogna fare due cavalli. Ma questa qua, questo qui qual è? Il B300? Il B350, il 300 lo devo ancora provare qua. Ah, quello della ZG non l'hai provato? Questo qua è quello della ZG, il B150. Però c'ho l'altro, la 300, con il finale a mosse, e quello lo devo provare. Questo è 150, capito? Questo è 150 ZG. Questo da 100 watt, così? Non so, non l'ho misurato, ma penso di sì, 80-90 watt. Però di radio è tranquillo, capito? Lo so, se invece lo metto sotto un altro coso, un altro baracchino è suonato, si mangia la radio. Forse questo baracchino è adeguato per questo amplificatore qua. Magari anche il watt d'uscita di entrata nel lineare, capito? Se sono sbagliati i watt d'entrata ti distorce. Infatti, vabbè, questo esce con tutti i watt. Questo è l'apparecchio da 4 watt, 3 watt e mezzo, dai, 2 watt e 4. Qui diciamo che va bene, tutto lì. Vabbè, dai. Già va bene, a Puglia. ti fa sentire. Per essere in quella zona lì che è un po' chiusa. Infatti la zona, diciamo, è proprio una cattiva, è interna, un bel interno, capito? Quindi quello magari trova ostacoli e cose, ma già si sente bene. Perché è un casino, capito? Adesso quella cosa, quella 800, c'era un problema sul moto. Cosa? Quella PCR 800 c'era un problema sul moto, capito? C'era la... dove c'è il moto, dove c'è la scarica, che praticamente da a lavorare in corto. Era tutto risaldato dentro, ho dovuto smontare tutto, assaldarla e sistemarla bene. E adesso va? Adesso funziona bene, 1-1 il stazionario. E già va bene allora. Già va bene, KK. Oh fra, poi quando ci vediamo ti devo dire una cosa. Cappa, lì pesca. Andare. Bisogna andare a pescare. Ci ho messo a comprare una tratta nella pesca da lì, bella, una Shimano. 4,30 metri. Da 100 ai 130 grammi, bella, vuoi tutta la sensibile. E cosa ti ripeti che si gare? Ne è 1000. Vabbè, da lì giringhi, ne avevo solo una, qui adesso mi ho comprato la cuffia. E quindi di solito io quando vado ne porto due, sempre. Da dove prendi tutte e quattro? Massimo se ne possono portare due, lo sai, che per legge se ne possono portare due solo. Se te ne trovano tre ti mettono la multa. Non sapevo questo. No, no. Sì, è così. Più di quel tanto lì non ne puoi portare, fra. Così è. La storia è quella. Perché praticamente ne devi avere due a persona. Ma se sei in due non ti dici di nulla. È un casino, va. Stanno sempre voi cercando le ricci. Non se ne capisce più niente. Poi si può pescare dalle 8 di sera sino alle 8 di mattina, dopodiché devi smontarle tutto. Addirittura. Sì. D'estate sì, d'estate è così. Non so, dalle 8 alle 8. Se non c'è nessuno gattilizzi nulla, se no, ma d'estate c'è quella regola. Dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Questo è allucinante. Vabbè, perché ci sono i bagnati. Ah? E ci sono i bagnati. È fatto sempre così. Ma dove vado io? I bagnati stanno sino alle 9:30, non puoi stare aspettando che loro se ne vadano. Io ti pongo i ganni, dopo come vedo che se ne escono dall'acqua comincia a lanciare. Se ne restano sino alle 9:30 lì sdraiati, capito? Parlando, facendo, fumando. E io non è che possa sentare il gomo di giù, no? Io a quell'ora lì se vedo che tutti escono fuori dall'acqua, prendo il lancio. E io mi metto già in posizione, metto già il portacarne con le canne chiuse, poi come loro escono, che non c'è più nessuno in acqua, lancio. Ma sai che proprio un'altra antenna, quella, la frustanera, dove non arriva. Pronto, pronto, chi è? Hola! Attenzione, binario 10, cambio. Oh, avanti, vi. Guarda un po', questa è la frustanera, vai qua. Secondo me questa qui è la migliore, come radio, come tutto, esce poi più forte. Che forse è l'altra? Come radio sì, il segnale non te l'ho detto, non te lo posso dare, però più o meno è quello. Ma non va più avanti di tanto questo qui, capito? Quindi, va bene, quello dell'altra lo so certo, no, ma immaginate. Quella lì è quella che devo piazzare in macchina io. Quell'autoceto non c'è la resa di questo. Lo sai cosa c'è, fra? Che quell'antenna lì è a banda corta, non è larga come banda. Sui 40 canali va bene, come stazionari, come tutto. Nelle altre bande non risuona. Vabbè, le altre bande non mi interessa, a me mi interessa che funziona bene qua, capito? Poi dalle altre bande non mi ha funzionato. Ma infatti. Sui 40 canali comunque va bene, sui 40 canali riesce a accordarla bene. Poi l'avevamo fatto col mio oro smetrovato, metto te lo ricordi. Io non l'ho più toccato, sempre di Cava. Infatti. No, ma quelle lì una volta regolate, se non li tocchi il bullone che tiene lo stub, già vanno bene. Wow, apparità! visto che hai lasciato il titolo della macchina, non devo valutare il titolo della macchina, non so dire, non faccio che fare. Lo so, ma poi dico su quella batteria, lo batterisci. Devi non attaccare, che la macchina ferma non puoi attaccare. Perché ti consuma tutta la batteria. Vabbè, non è che ci abbia tutto questo consumo, là. Io ho una batteria da 110. Allora ce n'è per il cane, la mia era da 100. Ma mi è successo una volta a Usilo, sono andato su. E mi sono fatto un po' di DX con la basanta, ho parlato con un bel di pusti, cosa che da Sassari manco di illusorio. Con la Turbo 2001 ho abitato Santiago Nove, arrivato alla basanta, fatti un gol. E ho parlato con lo stesso che aveva fatto quel baracchino, te l'immagini? Ho capito, sì. Adesso prova a regolarglielo quel microfono, quel prato fissato. Ma secondo me va meglio questo già. Prova a regolarlo. Tu gli chiudi l'ecco, gli chiudi tutto l'ecco e piano piano diminuisci il volume del microfono, perché se tu lo metti troppo forte, poi quando tu lo alzi distorce, capito? Sì. Ma no, questo è il microfono originale. Questo va benissimo, sembra preficcato, è forte. In realtà quello da solito, cioè, lo farà modificare a fare. Questo qua voi lasciate com'è questo impianto, perché ho provato a provare altre radio, qua non mi rendono la testa. Davvero? Dipende sempre dalla radio che metti. Prova a mettere quel Cobra, cosa è quello che c'hai a casa. Il mai? Prova a pulire. Vabbè, ci sono pulito, io lo so pulito. Direi. Ma pulito con 300, con poche altre, quindi a posto. Io c'ho quella stazione base, fra, che è 2 watt e mezzo. Esce con 2 watt e mezzo, la vorrei portare almeno a 5 watt, perché è un peccato, è bella, è bellissima, come ce l'avevi tutta blu, tutta illuminata. Sava che esce con pochi watt. Perché quella è stata fatta per pilotarla del lineare, ma la toccare, lasciatela così. La lasciamo così, là. Poi magari peggioriamo la situazione. Poi magari tutta una metà la fatta, se non lineare stai dando, lasciala stare in giro per tutti. A meno che la 2 watt la usi con lineare, deve essere presa. Invece farlo uscire con 100 lineare, poi uscire con 50, praticamente fa poco. Chi era qui? Attenzione, canale 10, ascoltate l'Isola Sarda, Italia che va chiamando, grazie. Attento collega, se ascolti Italia Nord Sardegna. Sì, possiamo di propagazione. Guarda, io questa apparecchio non è prende cuffie, niente brutti, non è prende cuffie. Sì, sono quegli apparecchi di una volta, non ne prendevano di colpi, tranne il Midland, vabbè, chi si è prestato così, ma altri apparecchi tipo Zodiac, tutti quelli, non ne prendevano più. Questo qua, guarda, è tipo un apparecchio piccolino, ma è più portatile, lo metti meglio in macchina, te lo puoi mettere in un garage pure, fai il buco dietro per farlo passare il filo come ho fatto io nella station vero. E non si vede nulla. Chiudevi il cassetto, non si vedeva niente. Tu montavo l'antenna, chiudevi il cassetto, fatti lui. Adesso lo pilota con quel lineare da 300, con quella finale della notte fa brutto. Ma quello lì ce l'ho avuto, lo sai, l'avevo ordinato una volta, l'ho avuto quel lineare che c'è tu, quello da 300. Quello però della con i finali a mosso, te lo sai che mi saturava lo stesso. Questo qua invece non lo so. Dipende sempre con che apparecchio lo usi, quanti watt li dai di entrata, capito? E certo che è così, si conferma. Però loro dicono da 5 a 10, non è vero, perché se non muore a 10 sassi. E ti lo fallo bene, devi far uscire almeno 4 watt, allora ti lo chiaro grande. Se tu sei uscito, butti più watt e se ci mangia la saturazione. Ti viene la fame in via. Questo apparecchio da 3 watt, modulato, l'ho già misurato. Quell'inare l'ho portato, sì che l'ho portato. È la stessa carrozza del 68. Maestro, che gusto ci prende a mettere la portante a uno che sta parlando dalla macchina? Che gusto ci prende? Sta rompendo le scatole, se vuoi entrare entra e basta. E tu non lo senti perché la metti a te? Sì, dai, è il vuoto. Ah, ci sono questi miseri, capito? Tu stai parlando della macchina, anche non passi quando sei a casa tua. Che gusti di menga, vabbè, lasciamo perdere, dai. Comunque, hai sentito che forse lo vogliono fare fuori stesso in Russia, a Putin? Dice che i militari stesso stanno distruggendo i carri armati perché si sono stufati di morire per lui. Stanno distruggendo tutto, carri armati, tutti gli attrezzi, poi ha finito quasi tutte le armi, capito? Secondo me è una battaglia persa, sì, ha bombardato le città, però è una battaglia che ha perso. Buttighe. Se non è che butta la bomba atomica. Cosa è? Non ho capito. Non casino questa guerra. Eia, eia, ognuno dice la sua. Speriamo di non finire almeno con la guerra mondiale. La terza guerra mondiale ce l'andiamo bene. Ma poi chissà cosa è il vaccino. Adesso dice che devono fare il quarto vaccino. Fra prepara di dopo i 60 anni. La faccia in culo. Altro che il doppio vaccino. Ma va a fanculo. Ciao Natalia, così arrabbiato sei entrato oggi. Ma ha giocato Dre e mi ha fatto a pezzi, Ruderso. Figurati se mi hai fatto un quarto, ma andiamo a fanculo, quando muore come ti gavani. Ah, non muore di là, non muore di drone, ciao Natalia, qua, è fatto così. E basta che non sia chi su, che ti fa di gribau, ben giusto. Ma non hai visto quanta gente sta morendo? Infatti, basta, cazzo. Calcio bergamasca. Adesso basta con tutte queste troncate. Lo sposo. Ah, va, si vede in misure generali, gatto, in televisione. Prima era pieno di virologi. Addio, calcio di base. Uno diceva una cosa, l'altro diceva l'inverso. L'indomani entrava Don Raghito e diceva un'altra cosa ancora. Non se ne comprendeva un cazzo. Secondo me erano dei cazzoni qui. E perché adesso non si stanno contraddicendo, Natale? Ti fanno togliere la mascherina e ti portano a fare il quarto vaccino. Gli ultraottantenni lo devono già fare, poi i 60, dopo i 60 anni. Perché sono categorie più deboli, eccetera, eccetera. Ma forse non è un peso che a 60 anni va, sei ancora giovane, non è più come te prima. E infatti, chissà che non mi si ponga nella faccia in culo, scusando la frase, per chi ascolta, ma a un certo punto uno, gatto, si incazza. Non avete capito che l'Inps sono d'accordo con l'Inps, fanno ai più anziani perché c'è così non mollano la pensione. Fai come ti lo firmi di fantuzzi che organizzavano le gite dall'Inps, dopo cadderanno sotto la galleria, se c'è qualcuno deve fare la pipiscella al Puma, come ti imparava, le passavano le auto 3, ma spiccicate, attaccate alle auto 3. E l'Inps si risparmia. Buonasera, ciao Natalino, ciao Gianni. Ciao Fra, c'è anche Franco da cosa, da Canica. Ehi K, non so se l'ascolto, avanti Franco. Ciao Franco, buonasera, non so se mi senti a me lì. Lo ascolti? Sicuramente non mi ascolta. Totube! No, non risponde. Natali, riprendi tu, dai. Dai, sto mangiando, io vi ascolto. Sempre maniere, dice Natalino. Va bene, dai, buon appetito. Avanti Fra. Ehi K. Chi è la canica? Franco California, in campagna. Ah, in campagna, come mai non lo ascolto io? È in macchina, non lo so se lo ascolti, prova. Franco California. Io ti sento, ma non so se tu ascolti me. Fra, ti ha risposto, lo ascolti? No, negativo, non lo sentono. Con che antenna cifra? Con la fissa nera. Prova a mettere la PNC800 a vedere se ce la fai, che da lì ce ne accorgiamo. Non è detto, è più lunga e quindi dovrebbe perdere di più. In lontananza magari va meglio, capito? Cala cala. E allora Franco, questo Galaxy Saturnecco, tutto a posto? K, lo senti? È questo, sempre questo. Va bene, che microfono le hai messo? L'MB più 5. Fa bene questo, ma la delta è migliore, superiore. Lo so, però non riesco, comincia a fischiare, gli ho cambiato anche tutto il cavo completo, la spirale, niente da fare. Ti fischia, prova a fargli un cavetto di massa che parte dalla vite del coso, del microfono e va all'attacco dove attacca il microfono. Fatto. Alla carrozzeria della macchina, del microfono. Tutto fatto, tutta la massa gli ho fatto, nulla da fare. Io ho il super side che così, però non è che fischia, alternata, fa se invece me lo metto sulla gamba va benissimo, se lo metto sul ripiano che tra l'altro è in legno, fa quel rumore, si sente leggermente, però. Capo, no, a me fischia anche un bel, invece lo su ne esce basso, è brutta la modulazione. Ah, vero? Sì, aspetta. Te lo faccio sentire. Fammelo sentire. Lo sciuro è... Allora non ci ha abbandonato il capsula, fra, non è possibile. O non è di me, perché lo sciuro è un super microfono. No, la capsula è originale, la sua. È tutta marcata. Allora è qualche componente in perdita che c'ha, perché lo Shure è un microfono di lusso a vero. Non lo so, aspetta che sto staccando questo e attacco là. Tu da poco se mi ascolto adesso, l'ho cambiato antenna. Aspetta, cambiato il microfono, fra. Sì. Adesso me lo avvicino alla bocca, spingo un po' di più, se no parte anche per sogno. Non sta amplificando quel microfono, c'è il circuito di amplificazione che è partito qualcosa. Quello te lo devi far controllare da qualcuno che se ne intende e controllare il circuito di amplificazione, perché lì non sta amplificando, sta uscendo senza amplificare, capito? No, metti l'altro che va molto meglio. Lo senti adesso a Franco che ha cambiato antenna o... Sto tu bene. Aspetta Franco, mi ascolti? Ah, che Franco? Mi ascolti, mi ascolti adesso? No, va parlando. Ehi, ti ha detto se l'ascolto. No, negativo, non lo ascolto. Vedo la portante a 2, però non ho modulazione niente, sento solo il QRM. Ma non lo so, non lo usaccio. Ha detto che non ti sente, fra, che la portante a 2, ma sente QRM e basta. E magari è negativa come zona, dai, è tutta l'altra capo delle... E poi all'interno, nelle campagne interne, capito? Ma è sicuramente zona negativa, per qua. Sì, probabilmente sì, ma aspetta se mette l'antenna sul tetto, che ce ne ha 2 di antenna da mettere, stanno ridendo, ancora non si è diffuso. Se mette l'antenna sul tetto cambia la musica. Ne ha una che va bene, c'ha l'energia e c'ha anche... Ma vabbè, quella lì la deve mettere a casa sua. La Game Master. E questo com'è il microfono, già? Questo è bello, questo è forte la radio. Più forte dell'altra? Come il giorno e la notte. Questo è l'MV4. Questo va bene, è forte, è bella. Capo, allora lascio questa, se è più forte, se è migliore è questa. Sì, è più forte. Ma tu mi stai dicendo con l'MV più 5 mi stai dicendo, o con l'altro, con lo Shure? No, adesso sto usando l'MV4. Mi sembra più squillante questa qua. Aspetta, adesso stacco quello e ti metto qui. L'MPV5. Proprio. Vedi a vedere questa? Cambia questa? Dai, è meglio l'altro, dai, fra, deciso. Ascolta, fra, ma i toni tutti chiusi sono l'MPV5. Allora, l'MPV5 c'ha il tono a 3. Mettilo a 0 a vedere com'è. Ok, così il tono è a 0, il mic gain sempre del microfono è a massimo. È vedi, adesso esce meglio, esce più forte. E più o meno si equivalgono adesso, però le più 4 mi piace di più, fra. E il K? Ma il K sono bene tutti e due, cazzo, sono tutti e due i nuovi nuovi. Io ne ho di più gruppo che fa carezzare, e non è tratto nemmeno tutti, infatti c'è qualcosa di lì. Franco, Franco, il campagnolo. Brecco, brecco, brecco, brecco. Chi è avanti, buonasera. Ciao Gianni, Giovanni, Giovanni Stanco. Tutto bene, ben ascoltato a te e all'altro amico che mi pare che si chiami Franco. Cappa Giovanni, c'è anche Franco California da campagna, non so se lo ascolti. Vediamo un pochettino se ascolti a Franco e poi vai per l'altro Franco di Senno, di là, Sorso Senno, di là, è la strada che porta a Sorso. Ehi Cappa, dai, ciao Giovanni, ben ascoltato, noi già siamo due passi. Niente. Vabbè, allora lascio questo qua, lascio, dai. L'MVP4, intanto, uno vale l'altro. Avanti, Giovanni. Fra, te già ti sento bene, super bene ti sento, non bene, super bene. A Franco, California, però ancora non sono riuscito a sentirlo. Franco, attenzione, California, si ascolti a Giovanni Stanco. Oh, Franco si è farato, dove si è caricata la batteria di Damasco? Giovanni, parti per lo Stanco veramente, ti sento. Sempre sono stanco io. Mi beso e sciacco io. In alto sì, a Signori. Come Giovanni? In alto sì, a Signori, che zona sei di Signori? No, no, io non abito a Signori, io abito a Sorso. La zona più alta che c'è. Ah, Sorso sì, avevo capito, Signori. E da quella stradetta si va da Sorso a Signori. Nella, diciamo, sotto Signori là. Io trincavoli per passare per andare a Senno, e di fronte alla macchinetta, la macchinetta a turbo. Mi sembra che c'è ancora lì. Ma da quando vai questa macchinetta? Io mi ammetto, e da quando faccio dei viaggi di frutta, a Sosse, a Senno, la vedevo, perché passavo sempre la strada avanti a casa tua. Ehi capo, quella era di mio cognato, era, l'avevo regalata a lui, l'avevo regalata. Poi quando si è cercato ce l'ha buttata, l'ha presa quello di che abita lì e ce l'ha messa sul tetto. Ah, ti vedi così? È tutto in ferro, mi! In ferro? Allora, non è plastica, no! Ah, io pensavo fosse una di quelle macchette giocattoli di bambini. No, oh, è tutto in ferro! E dici no, che sono la rubetto della mia bucata! Cava cava, vabbè. Io fra l'ho capito dove abitavi perché ho visto le antenne. Ehi capo, ahimè, questa è la tua idea. Quando se ti hanno detto la zona più alta di Sorso, sei passato da lì, quella è la più alta frutta. Dove sei tu? Sì, io sono proprio nella zona più alta. Cappa cappa. E invece a Senore dove c'è la circonvallazione, lì è la zona più alta. Lì è bello. Aspetta, riprendi Giovanni. Stavo ascoltando, questa macchinetta non l'ho mai vista, e comunque quelle zone di Sosso già le ho fatte, Senori e tutto quanto. Ma perché tu col camion che c'ha non ci passi lì, la saletta è fino a fine. Io passavo col furgone, col Ducato quello grosso, dai, quello grande. Chiedi se conosce, anzi già mi ascolta, se conosce il bar di Pietro Manghina, l'ex bar che c'aveva Pietro Manghina a Signori. Pietro Manghina? No. Sono... Di Signori proprio non lo conosco. Sarai con la via principale, no? Dove è all'altezza dell'autoscuola. E beh? Lì c'è una viuzza venendo da Sassari, venendo da Sassari, tanto per capirci, c'è una viuzza a destra e lì devi dare la precedenza ai pullman, ti devi fermare, dai, due macchine passano male. E beh? I capitoli, più o meno dove sto dicendo? Più o meno tu stai dicendo dopo la farmacia. Bravo. Proprio in quel punto dove si stringe la strada, no? Che c'è quella stradina che scendendo da Sassari a sinistra anche e scendi giù il mare verso il Sorso. Bravissimo, bravissimo, proprio una stradina è però quella. Però rimani sulla strada principale. E dunque siamo arrivati a quell'altezza dove se passa il pullman ti devi fermare, perché vettura e pullman non ci passa. Ci siamo? Sì, quello è il centro, che c'è il mare a destra e poi lì c'è la trattoria e più avanti c'è la banca. Hai capito bene, lì in quella strada, in quella strettoia, ci ho entrato un 115 una volta a retromarcia. Sì, cavolo, ma tu cosa guidi, il camion grande? Sì, stavo facendo celle a frigo, però c'è stato un periodo che guidavo questi motricette, dai, camioncini, 7-8 metri, non sono stato mai a misurarli. E lì dovevo fare, ero con Nieddu, dovevo fare una ferramenta, cioè, lì sopra, in quella viuzza che ti dicevo, e siccome è una roba pesante, cazzo ho detto, gira gira ce lo metto, loro no, non per imbunire, farò un vigile, però cazzo dovevo sbrigarmi, l'ho preso e ci ho messo sonda direttamente sopra il gradino della ferramenta. Ehi capo, la ferramenta era lì, il mare lì posso cammini grandi non ce n'era. Ci passi, ho fatto io una mattina, ma non era neanche da fare. In genere si fermavano nella piazzola dove c'è il bar, poi prendevi la merce, la mettevi sul tre spalle, te ne la scendevi dal camion con la sfonda e gliela portavi là. Però io il giorno ho voluto fare un viaggio di Romandroni, c'avevo fretta, ho detto cazzo, ma ce la faccio a metterglielo lì, cazzo, a mettergli la sfonda lì, e così ho fatto. Avanti già. Comunque Gianni, qui a scendere questa strada qua, dove sono io, cami grandi non possono scendere, ci vuole un permesso speciale. Già lo so, infatti io non venivo col camion grande, venivo col Ducato, vabbè, quello gemellari dietro, quello un po' robusto, dai, più grosso, Ducato Maxi. Ehi capo, io ho capito quale, già l'ho visto quello che guidavi tu, lo vedevo sempre lì uscire per fare le consegne, le vesti. Bocomani. Bobo, mi dovevi entrare due. Ciao a tutti, corretti per me. Buonasera. Ma andate lì. Chi è Gianni? Claudio, ma pensavo fosse Natalino, ho detto mi dovevi rientrare due, invece era Claudio. Ah, Claudio era. Claudio! Non ci parlo di Cuocomani io. Ma io non sono Cuocomani. Dici tu, fa vedere, Natalino c'è Cuocomani. Ai ai ai, cosa mi hai detto? Anche Gianni, Cuocomani, Pedivella, Casarella. Ma se non ci sono le Cuocomani, i spacciatori non guadagnano. Non c'è più un traffico come prima, no? Ma è Cuocomani. Sono tutti dentro. A bancari sono i Cuocomani. Diciamo adesso il mio genero l'ha portato a quel cagnone, al cane quello grande, infatti c'era Filippo Vento che era a Ragliuardo, lo voleva uscire, ma se esce si azzuffano. Ah, non vanno d'accordo? Oh, il primo giorno che ci siamo visti l'ha attaccato Filippo, perché l'ha passato sotto, a Giuda, cazzo l'ha attaccato, a morsi alle cosce. Una, due, tre volte, la terza volta si è girato giù, ha avuto mossa a capo, sei punti. Sono cani grossi, qual è quello che mi stavi dicendo tu, quello col bonvaro? No, questo è preso a Canario, abbiamo trovato preso a Canario, quelli sono a Monte Oro, quelli non li togliano, allora li porti quelli, mamma, questo fa senza guinzaglio, un cane bravissimo, non ne frega niente di nessuno, però se le rompi le palle ti muscica. Tutto un masciacabo a Filippo, c'è ancora la cicatrice sotto il ferro. Sono cani grandi quelli, sono pericolosi. Ma quelli lì con il pitbull, se sa fare, l'hanno capito. Non lo so, con il pitbull giù da tanto di Modurano, ma tu l'hai visto quel cane. C'è la testa che sembra un cavallo, cazzo. È alto me mi arriva a metà busto, dritto mi mette le zampe sopra le spalle, sono 1,70 io, quindi è enorme, non lo so, è un cane molto robusto, molto forte, molto, non penso sia che Rubitti Bullo si voglia a giocare con un cane del genere, sarebbe proprio raccoglione. Sono cani mari, hanno preso il cane, una signora qua vicino, l'ha preso il cane da braccio, l'ha messo in braccio, questa signora l'ha preso, l'ha fatto tutto, l'ha portato lontano, l'ha fatto tutto a pezzetti. I cagnolini, gli arugliosi. Quando era carbonato, te l'ho già raccontato una volta, io ero dentro il giardino del comune, quello che è dal lato via Milano, che è abbastanza grande, c'è una rete, che tra l'altro poi noi l'abbiamo aperta e fatto il cancelletto per entrare a giocare con i cani. Io ero dentro e Filippo l'ho sciolto perché era, sto parlando un po' di anni fa, mi pare che avesse 6 anni Filippo, 5-6 anni. Sempre bello tosto, perché il mio è un cane che ci può giocare molto facilmente. Lui, capito, signore, non mi ha visto lui perché ci sono gli